che vengono a lavorare a Milano, che prendono la residenza a Milano e magari nei loro paesi di origine, nel sud, hanno una casa che con tanti sacrifici e tanto sudore della fronte gli hanno lasciati i genitori o i nonni. Mm. Lo sa quanto impatta quell'Imo ai poliziotti? Tanto quanto il loro stipendio di un mese. Però lì ci sulla a lei le sembrano ricchi, però lì, no, lì ci sulla seconda casa c'era sempre, anche prima, insomma, è stato tolto. Sì, ma aumentato il 200%. Ah, questo sì, l'aumento sì. Era completamente diverso e poi c'erano alcuni casi che erano esclusi. Devo ora mica paragonare l'Imo a Lice? Mm. No, sono due cose diverse, in effetti. Sono due cose completamente diverse e molto più onerose. Intanto la ringrazio, buona giornata. Grazie, a Daniela Santanchè, che è stata con noi. Torneremo a parlare del tema delle province, perché si parla tanto di accorpamento, riduzione, abolizione, ce la faranno, chi lo sa, chi non lo sa. Intanto il dato di fatto è che ieri il presidente della provincia di Messina, che sarà il nostro ospite tra poco, ha detto abolire le province. Sapete che c'è? Io nomino 5 nuovi assessori. E lo ha fatto ieri. Saluto intanto un collega, il giornalista di Repubblica Emanuele Lauria, che è con noi. Emanuele, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Scrive soprattutto di cose siciliane. A proposito di Sicilia, saluto il presidente della provincia di Messina, Giovanni Nanni, ricevuto. Buongiorno, presidente. Buongiorno, eccoci buongiorno. Con noi. Allora, ma come? L'abbiamo letto che in tema di accorpamento, eccetera, lei che ha fatto ieri ha nominato 5 nuovi assessori. 5, giusto? 5 no, 2 nuovi assessori. 2 nuovi assessori. Com'è che io ho letto 5? Come mai? E come mai ne ho letti? Prego? Perché ne ho letti? La sento male, posso avere aumentato l'audio? Adesso aumentiamo l'audio. Adesso, e perché ho letto 5 nuovi assessori? Ma io non so da cosa dipenda, noi eravamo 13 assessori e arriviamo a 15. E non so, ieri anche sulla Gazzetta del Sud Online ce l'ho qui, è presentati i 5 nuovi assessori. Sì, ma sono, mi scusi, sì. Ci sono state delle sostituzioni di 3, questo è il discorso. Ah, vabbè, certo. E perché le ha aumentato gli assessori? Beh, diciamo? Innanzitutto innanzitutto saluto pure Emanuele Lauria e lei ovviamente. Ma io non ho aumentato, io ho ridotto la spesa, questo è il discorso diverso. Noi abbiamo ritenuto che proprio in momento di spending review si debba operare in direzione delle spese e dei costi, per i costi della politica. Noi così facendo tagliamo dei costi della politica circa 200.000 euro delle indennità del presidente e degli assessori. Ah, perché lei ha aumentato di assessori ma ha ridotto l'indennità. Mi spiego meglio. L'indennità. Non è che le abbia aumentati così, mi spiego subito se lei mi dà un minuto e mezzo o due. Allora, la verità qual è? Che certo lei parla di accorpamento, nel nostro caso non si tratta di accorpamento assolutamente, l'accorpamento riguarda altre province più piccole. Per noi, all'indomani di una decisione, diciamo, importante del governo nazionale, che dopo 2 anni di tribolazioni, province sì, province no, e comunque per quello che riguarda la provincia di Messina sembrava appunto dovesse cancellarsi, finalmente è arrivata una decisione che individua nella provincia di Messina una provincia che per via delle dimensioni del territorio, per via della popolazione e quant'altro, è salva. Continua, non solo è salva, ma è auspicabile, questo è quello che ha che sappiamo possa esserci una sorta di aumento, tra virgolette, delle competenze specifiche e strategiche nel territorio come ente intermedio. La provincia di Messina è un ente, provincia che al proprio interno vede la presenza di 108 comuni distribuiti su una fascia di 180-190 chilometri più le montagne, ovviamente, e quindi sono tutti piccoli comuni che hanno necessità. Vabbè, quindi la provincia è importante anche in questo provvedimento. Bene, a questo punto arrivato, l'idea qual è? Noi proprio all'indomani di questa decisione e alla vigilia di tutto ciò che dovrà essere la propria futura eventuale sfida delle province, ci attrezziamo più opportunamente. Con due assessori in più. Prego. Con due assessori in più. Dico. Certo, ma non per niente. Non sono assessori così, tout court, e generici, eccetera. Non sono 15 assessori, sono 15 delegati a fare e a raggiungere 15 obiettivi nel giro di 3-4 mesi. Come dovrebbero essere tutti gli assessori o tutti i politici? Questa è la novità vera. Non l'avevamo sperato di poterlo fare, ma nel corso degli anni, proprio nel corso degli ultimi due anni, soprattutto per via di queste incertezze, diciamo, circa il ruolo e la persistenza, la permanenza delle province, l'abbiamo fatto. Insomma, ma come, secondo lei, come percepiscono gli italiani ma che guarda, sentono parlare di province e vedono che lei fa due nuove assessori? Ma gli italiani, certo, se io sento parlare di accorpamento e di cancellazione e faccio una cosa del genere, è giusto che reagiscano. Io parlo però di casi specifici, del caso concreto, del caso della provincia di Messina, non parlo di una generalità di comportamenti, cioè in relazione al caso specifico della provincia di Messina noi abbiamo realizzato questo per realizzare 15 obiettivi fra tre mesi e quindi 15 obiettivi concreti che hanno a che fare appunto con la soluzione di problemi prodottisi in maniera magari più lenta e più stentata proprio per via di queste incertezze che adesso vogliamo alla quale gli assessori del fare, no, ma faccia dire delegato al fare, come definizione, conto di quello che debbono percepire gli italiani o gli italiani, i siciliani, i messinesi, noi non è che facciamo tutto questo, diciamo, e aumentiamo le spese, No, lei ha annunciato, mi taglio l'indennità, 200.000 euro, credo che si possa attestare che sia la prima amministrazione che affronta, glielo dico molto brutalmente, che affronta uno sforzo di questo tipo, è uno sforzo nel quale noi che crediamo, si affronta con una indennità che è tagliata, per quello che riguarda il presidente, del 75%. No, ma infatti, allora mi faccia, mi faccia aiutare da Emanuele Lauria. Allora, Lauria, quando l'abbiamo letta, diceva l'ennesima storia che proviene dalla Sicilia. Ieri c'era anche il governatore lombardo alla Zanzara. Insomma, queste vicende, anche queste nomine, degli ultimi 100 nomine. Che dobbiamo dire di questa vicenda di Messina? Va tutto bene e sta facendo in maniera tutta virtuosa il presidente ricevuto? Ma per carità. A me questo ragionamento non convince, mi perdonerà il presidente ricevuto che conosco da qualche anno e so che persona con cui si può ragionare di queste cose. Non mi convince perché prendo atto della riduzione delle indennità, sa che in questa materia è comunque diciamo una rarità. Però non mi convince perché il discorso va affrontato anche un po' complessivamente. Io ho ascoltato diciamo il riferimento ai delegati a fare, come appunto come ha chiamato gli assessori. Però certo non si comprende perché Messina debba avere 15 assessori e a pochi chilometri di distanza, a 100 chilometri di distanza, Catania ne ha soltanto 8, insomma, così come Milano ne ha anche meno di Messina, non è che siano province meno importanti. Ora, per carità, è vero che Messina è una grande provincia, ha 108 comuni, però obiettivamente ci sono anche delle regole e non si capisce perché c'è questa difformità di comportamento tra gli amministratori e comunque questa difformità nel numero diciamo, e nella composizione delle giunte. Peraltro dovete sapere che la Sicilia ha una legislazione autonoma in materia ed è una legislazione che assolutamente tutela alcuni privilegi degli enti locali siciliani. Basti pensare che prima ancora delle norme sullo spending review, già durante il governo Berlusconi sono state approvate delle leggi che per esempio riducono il numero dei consiglieri provinciali al massimo a 18, quindi Milano avrà dalle prossime elezioni, a legislatura attuale, poi ovviamente sono le norme che sono adesso all'esame, però dico avrà 18 consiglieri, Palermo ne ha 45 e mi pare che Messina ne abbia soltanto qualcuno in meno. Ecco, in questo clima e con questi segnali che giungono dal resto d'Italia, questo tipo di manovra è ovvio che lascia delle perplessità. Con tutte le spiegazioni che ci fa il Presidente ricevuto. Assolutamente accettiamo, anche perché se mi permette, io ho l'impressione che il Presidente ricevuto, come dire, glielo dico così, diciamo con simpatia, d'accordo il raggiungimento degli obiettivi, però forse questo allargamento della giunta è dovuto anche al fatto che l'anno prossimo si va a votare e magari dobbiamo anche soddisfare i partiti alleati. Ah, vabbè, questioni politiche. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi torniamo con il Presidente della provincia di Messina anche a capire, insomma vorrò capire adesso quant'è il suo stipendio, glielo chiediamo, tanto è tutto pubblico tra poco. Strade in diretta. Si viaggia a senso unico alternato al traforo del Monte Bianco per un mezzo pesante in avaria all'interno del tunnel. sulla A4 Milano-Brescia 2 km di coda per un tamponamento tra Grumello e Bergamo verso Milano. Sull'autosole code a tratti tra Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna sono le conseguenze di un incidente avvenuto prima dell'alba e ora risolto. Sempre in A1 ma in Campania è chiuso a causa di un incidente il bivio per la A16 Napoli-Canosa in direzione Napoli. E per un incidente sulla A3 Salerno-Reggio Calabria, rallentamenti tra Frascinetto e Sibari in direzione Reggio Calabria, si viaggia su una sola corsia. Infine code a tratti per lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna verso Firenze. È tutto, il prossimo appuntamento tra un'ora. Promo 24. È tempo di innovazioni, è tempo di Nuvola IT Hyperway, l'offerta per le aziende che integra i vantaggi della copertura in fibra ottica di Telecom Italia con i servizi della Nuvola Italiana. Attivando Nuvola IT Hyperway si ricevono le gocce di nuvola che permettono di scegliere i servizi cloud più adatti alla propria azienda a condizioni vantaggiose. Un risparmio che si traduce in nuovi investimenti per il business, pubblicità, corsi di aggiornamento o una filiale all'estero. Raccontando la propria idea sul sito nuvolaitaliana.it si può partecipare al concorso Io e la Nuvola Italiana e provare a vincere uno dei servizi cloud per la propria azienda. Info e regolamento su nuvolaitaliana.it. La Nuvola Italiana di Telecom Italia, l'unico cloud con la rete dentro. Eccoci alle 8:47 minuti. Allora siamo ancora con Emanuele Lauria di Repubblica e con il presidente della provincia di Messina, Nanni Ricevuto. Presidente, vogliamo farle un po' i conti in tasca, perché avevo letto di recente che c'era stata una determina dirigenziale che però lei aveva rifiutato, alla quale aveva rinunciato, che portava a 8.000 il lordo, 8.697, diciamo 8.700 euro. Presidente, mi deve consentire di rispondere un minuto soltanto, 30 secondi ad Emanuele. E poi facciamo, poi le facciamo scusi, i conti. Facciamo i conti, ci mancherebbe. Allora, la prima cosa, no caro Emanuele, non regge il discorso, perché non è che abbia, innanzitutto c'è una normativa, come lui ha detto, che è di privilegio, tra virgolette, nel senso che credo che se attesti su posizioni, ma comunque non è questo. Noi abbiamo la possibilità di nominare 15 assessori, io nomino 15 delegati a fare una cosa entro 3-4 mesi. Ma lei li chiama così, delegati a fare, ma sono assessori, cioè, no, guardi, a Messina abbiamo i delegati a fare. Delegati a fare nel senso che desidero connotare questa necessità di realizzare taluni obiettivi. Seconda cosa, certo, io voglio sapere, Catania e Palermo ne hanno nominati perché ne hanno nominati di meno nel corso del tempo, vogliamo vedere quanto spendono, perché il dato è proprio questo, ma che è il numero degli assessori che è influente? Ah, lei insiste, dice io ho tagliato la spesa, ma Presidente, c'è gente che dice che le province andrebbero cancellate del tutto. Io tengo atto di quello che è una situazione normativa in atto esistente, se dovessero essere cancellate non abbiamo prodotto nient'altro che risultati concreti di realizzazione di strutture o di programmi o quello che sia nel territorio. Allora facciamo due calcoli. Lei che ha rinunciato a questi 8.700 lordi alla determina dirigenziale. Cioè quanto prende? Quant'è il suo stipendio? Mi permette? Sì. Io la norma per legge, il compenso spettante al presidente lordo è 8.000 e quello che sia, ed è circa 4.000 e qualcosa, circa il 50% netto, 4.000. Da 4.000 e quello che è 200, non mi ricordo, però io arrivo a 1.300 euro al mese. Quindi lei adesso prende 1.300 euro netti al mese. Da domani se le riduce, però sì. Lei è stato anche senatore del Parlamento, avrà un vitalizio? No, non ne posso avere in costanza del mandato avrà un vitalizio. Quanto? Mi scusi, siccome sono sospeso da 4 anni, sono sospeso, non posso percepire questa cosa. Beh, cioè, nel senso, nel momento in cui non sarà più presidente della provincia di Messina. Ma scusi, quello non è che riguarda il presidente ricevuto, quello riguarda proprio l'impianto strutturale delle indennità. No, chiaro, da ex parlamentare, certo, ma nessuno sa già a quanto ammonta. No, non lo so. Però avrà mutualizzato. Ha fratto quante legislature? Due, credo. È stato anche deputato regionale siciliano, sì. E quindi avrà un vitalizio anche lì, immagino. Anche in questo credo che abbia una riduzione notevole di tutto questo. Io, sì. Se lei mi crede... non lo sa, però ce l'avrà. Mio, va bene. Ha del suo da parte. No, capisce che... Ma lei non è che può... Scusami, perdoni, non è rivolta a lei. Sì. Ma non è che si può criminalizzare, diciamo, per quello che nel corso del tempo uno ha avuto l'opportunità di fare. Io condivido con lei... sbagliato tutto quanto, bisogna rivedere tutto quanto, certamente, ma è un altro discorso, è un discorso che deve investire certamente gli interessi generali del Paese, che deve investire le decisioni che mi auguro possano esserci nel Paese da parte del Governo e Parlamento, e sono perfettamente d'accordo. Io in questo momento faccio i conti con le mie cose. Sì, certo, certo. Non è che si può immolare. No, dico, non è che si può lei immolare, per carità, no, per le cose che si possono... Mi sto immolando, come vede. Si sta immolando. Stanno immolando gli assessori. Guardi, credo che di poter dire con molta presunzione, non ho assolutamente di questo tipo di scheletri nell'armadio, da mai. E poi voglio dirle un'altra cosa, che io credo molto in questa funzione, in questo momento di questa amministrazione, tendente a realizzare questi obiettivi, perché credo che questo possa meglio attrezzare il territorio. Lei deve sapere che questo nostro territorio è un territorio che vive soprattutto di turismo. Noi siamo la provincia dove c'è Taormina e le isole Eolie, giusto? Non abbiamo un aeroporto. Non mi dica che vuole un aeroporto anche lei. Mi sono spiegato, farei la figura del cretino. Io voglio utilizzare in maniera più convincente e più coerente l'unico aeroporto più vicino, che è quello che si trova dall'altra parte, in Calabria, quello di Reggio Calabria. Ah, certo. Nient'altro che... È consentito questo? Ah, questo sì. Ah, mi dica, vorrebbe il ponte lei, per esempio? Parlando di attraversamento dello stretto per poter utilizzare più opportunamente l'aeroporto di Reggio Calabria. Ma lei è pro o contro il ponte? Ma io sono stato a favore in passato, adesso non lo sono più. Non so, e come mai? Perché ovviamente non mi convince più, alla luce di tutte quante le questioni che riguardano appunto la spesa pubblica, la necessità di intervenire sul ponte immediatamente. Emanuele Lauria, questa autonomia in Sicilia è percepita da molti italiani, che leggono anche i tuoi articoli, gli articoli insomma che si leggono sui giornali, come una fonte più che altro di sprechi. È davvero così, oppure c'è sempre solo l'attenzione a puntare l'accento su questo e mai a premiare invece le cose magari virtuose che si fanno? Beh, guarda, se lo chiedi a me, che ho anche scritto un libro su come l'autonomia siciliana si è trasformata in una più grande, una gigantesca macchina di sprechi e clientele, insomma la risposta è quasi scontata. No, purtroppo l'autonomia è tutt'oggi uno scudo di fronte alle riforme che arrivano dal resto d'Italia. Anche questa vicenda, purtroppo, e ripeto, con le giustificazioni che peraltro sono parzialmente convincenti da parte di presidente ricevuto, anche questa vicenda però un pochettino ce lo dimostra, perché è vero, indubbiamente, è vero ed è lodevole anche la riduzione indennità, perché insomma se quando un presidente di provincia guadagna meno di 2.000 euro e un deputato regionale all'Assa, sempre regionale, ne guadagna 10.000, insomma ci si rende conto che ci sono ben altri sprechi insomma in Sicilia. Però ecco, non si capisce perché Messina, che pure d'accordo è una città, una provincia importante, però certamente fa parte dell'Italia, oltre a far parte della Sicilia. Se c'è una legge nazionale in discussione per adesso che ci dice che ci deve essere un assessore ogni 4 consiglieri, insomma, davvero non si capisce perché questa norma dovrebbe valere a Ravenna piuttosto che a Reggio Emilia. In tutta Italia, c'è l'autonomia. Fatevi sentire un ascoltatore, Fabrizio da Verona, che ci ha chiamato. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno a voi. Mi hanno detto alla redazione che lei vuol fare un intervento duro. Cioè, che sì, vuol dire? Allora, no, l'intervento mio duro è che io sono italiano e credo all'Italia, mi piace l'Italia, però con tutta questa crisi, con tutti questi sprechi, con tutte queste fatiche che bisogna fare, è mica più semplice staccare il cordone che la Sicilia ha legato con l'Italia e lasciarli andare alla deriva con tutte queste spese assurde. Così pacato lei, Fabrizio. Stacchiamo, che facciamo? Compriamo una mega motosega e tagliamo tutto, tanto sono già divisi. Ha sentito, presidente bravo, ricevuto? Bravo, bravo. No, vi mandiamo alla deriva, andatevene pure in Libia. Questo è il concetto. Ma io mi scuso, scuso anche per questa, diciamo, scuso nel senso, comprendo anche le ragioni, diciamo, un po' leghiste, eccetera, eccetera. Ma non comprendo, diciamo, sul piano della considerazione. Io dico, e mi scuso, ripeto per l'affermazione, ripeto, allo stato dell'arte il problema è modificare le norme, ciò di cui parla Emanuele sono cose infieri, non c'è certamente niente. Certo, l'autonomia è ormai una caricatura, non ha necessità nemmanco di esserci. Chi le parla ha sempre detto che noi dobbiamo essere una regione come tutto il resto delle regioni d'Italia. Mm-hmm. Così probabilmente anche queste critiche astiose da parte di chi mi ha preceduto probabilmente forse potrebbero rientrare. Sa, però saranno astiose, lei dice leghiste, però sono anche critiche di chi legge cose e si informa. Una cosa è la discussione, una cosa è dire se ne vadano alla Vabbè, verità, certo, questo sì. Io vi devo fermare, vi ringrazio il presidente della provincia di Messina, Nanni Ricevuto, ed Emanuele Lauria di Repubblica. Ci fermiamo qui, seguiteci su Twitter @24mattino oppure @AlinoMilan, seguiteci anche su Facebook, siamo anche lì 24 mattino e siamo anche raggiungibili via mail 24mattino@radio24.it. Che dire, ci ritroviamo domani alle 7:20 con Alessandro Longoni qui in redazione e il nostro alpino Peter Bescapè in regia.